pensiero, niente voglia, niente spera, che venete sempre a fianco a me. Sì, sicuro è che sta amore, che mi so sicuro è te. Oi, vita mia, oi, cuore, che stupore, si stava, o prima amore, o prima l'ultima sarà per me. Scrive sempre sta contento, io non penso che a te solo, no pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. O prima e l'ultima sarà.